e divenim quelli listeni. Unless the gentleman start now on hail clandestino cheat the new season. Benvenuti, benvenuti alla nuova stagione di Clandestino Cheat, una puntata tutta da un programma esuberante anche questa sera, nuova stagione sempre su Fuori Onda Radio con un nuovo palinsesto e naturalmente nuovi ospiti. Andiamo subito a presentare gli ospiti stasera direttamente dalla Palestina. What's your name? Ahmad Abarro. Benissimo, e naturalmente alla sala macchine l'imperdibile macchinista, vai Peppe. Buonasera a tutti, ben tornati all'ascolto della nostra trasmissione. Siamo tornati dopo qualche mese, finalmente siamo di nuovo online con la nuova piattaforma di Fuori Onda Radio e con tante nuove trasmissioni, una web radio online quasi 24 ore al giorno, quindi speriamo che questa stagione sia bella come quella passata. Vai Ciccio. Sì, presentiamo subito la serata di oggi, che è molto particolare rispetto alle altre perché ci diletteremo in un nuovo linguaggio universale che è l'inglese, sì, perché stasera il nostro ospite, l'intervista sarà interamente in inglese. Passiamo al prossimo pezzo e si va avanti con la serata. Buon ascolto. Hope you guessed my name. it was a time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades. Si ritorna qui in studio all'Occupata P2 con Fuori Onda Radio. Niente, passiamo subito la parola al nostro ospite. Good evening, Ahmed. Can you tell us about yourself, Ahmed? Buonasera a tutti. My name is Ahmed Abu Rub. I'm from Palestine. I live in Jenin, in West Bank. I come here before 2 months to complete my studies. My study is the history of art, historia dell'arte, and of course I will go back to my country after I finish my study. Okay, okay. And I want to tell us a small thing about the Palestine location. Yeah, my country, the location of Palestine is at the eastern coast of the Mediterranean Sea. Palestine located to the south of Lebanon and the west of Jordan. Okay, okay. You can see the song of our, yes. Yeah, this song, this music for refugees who is live outside our country and can't go back. Okay, start the song. Il nostro ospite ci ha appena elencato la sua situazione, la sua, cioè dove vive la sua abitazione e la Palestina, dove è collocata geograficamente parlando. che affaccia sul Mediterraneo. Noi adesso ascoltiamo la canzone del nostro ospite che il titolo della canzone è I'm Going Back to my Homeland. Ok, buon ascolto. راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي بالغرب مرة أنا ولادي راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضراء راجع بلادي أنا ولادي أنا ولادي بالغرب مرة راجع بلادي Ritorniamo in studio con il nostro ospite direttamente dalla Palestina, Ahmed. Adesso invito chiunque abbia voglia di porre una domanda al nostro ospite sulla situazione palestinese, è libero di farlo. Naturalmente è un problema molto grave nel nostro secolo. Adesso appunto parleremo della situazione storica della Palestina con il nostro ospite. Ahmed, what about the important history of your country? The Palestinian lands are composed of two discontinuous regions, two areas. The West Bank, which has an area of 5,000 square kilometers and a population of 2 million to 50 million. And the other part is Gaza Strip, which is a small enclave located to the south of the Palestinian coast and has a total area of 365 square kilometers and a population of 2 million. The Palestinian is occupied by Israel in 1948. Palestinians lost their lands between 1946 to 2011. In 1946, Israel took 10% of the Palestinian land. After that, in 1948, we lost, 50% of the land by the war. And in 1967, we lost again some of the of our lands. It was approximately 70% from the total. Now we just have approximately 20% of all our country. Il nostro ospite ha appena elencato la situazione storica della Palestina a partire dal 1948 fino ai giorni nostri. Peppe, vuoi aggiungere qualcosa a merito? Giusto, Ahmed ci ha ricordato gli ultimi 50 anni, 60 anni della Palestina, che prima era uno stato libero e dopo è stato occupato da Israele in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. E ora i palestinesi sono divisi in due zone, una zona nord e una zona meridionale della striscia di Gaza, dove sono isolati dal resto dell'altra Palestina, e quindi sono costretti a passare sotto dei tunnel per portare anche il mangiare. Vengono accusate di portare armi da questi tunnel, ma in realtà portano anche roba da mangiare. La striscia di Gaza, che è una zona molto complicata del Medio Oriente, dove questo genocidio da parte di Israele nei confronti della popolazione palestinese, che continua imperterrita, e tutto il mondo sta a guardare e nessuno interviene. In altre situazioni si sarebbe intervenuti, ma lì non conviene, lì non c'è petrolio, lì non c'è interessi, anzi conviene tenere uno stato amico come Israele per controllare quelle zone del Medio Oriente. Sì, appunto, come elencava prima Peppe, adesso Ahmed delineerà i veri problemi che affliggono la sua regione, la Palestina, ricordando che comunque i media, come al solito, non passano le vere notizie, ma le vere notizie naturalmente si vivono. Ringraziamo il portale e internet, perché comunque è una finestra verso il mondo, e invito tutti quanti a informarsi, perché comunque quello che sta succedendo oggi in Palestina, che continua a succedere da tanti anni, è veramente qualcosa di obbrobioso. Ok, Ahmed, the problem in your country, the real problem. Poverty is the first problem, I think. Over half of Palestinian life under the poverty line, 46% in West Bank, the part I live there, and the other part is 78% in Gaza Strip. And there's the refugees. This song was for the refugees, yes. These are a total of 6 million refugees in the worldwide. Mm-hmm. And they can't go back to our home because the Israel don't let for them to go back. Yeah. And there's a settlement. There are currently 121 Israeli settlements and approximately 102 Israeli outposts. Both are built illegally on land occupied in 1967. There are also approximately 462,000 Israeli settlers living in the West Bank. 191,000 are in settlements around Jerusalem, and 280,000 are spread throughout the West Bank. That's it. Praticamente il nostro ospite ha parlato della situazione della povertà che affligge la Palestina e dell'affluenza anche a livello bancario che Israele comunque impone a questo popolo. Giusto appunto Ahmed l'altro giorno mi parlava praticamente dei problemi economici che affliggono il proprio paese. Non si vive pensando a un futuro, ma si vive comunque pensando pensando a un senso di vita concreto, cioè la giornata, tipo lui mi spiegava del fatto economico anche in un quartiere, se qualcuno non ha la possibilità economica per, non so, non fare la spesa, mi ha fatto l'esempio, se tu hai 20 euro, 10 li dai a me e 10 li tieni tu, il giorno dopo farò lo stesso io se avrò la possibilità di aiutarti. Possiamo pensare a un altro pezzo, questo pezzo ce lo presenta Peppe. Manderei un pezzo di Bob Marley, il mitico. Oh no, Gigi, andiamo. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. 'Cause I'm Si ritorna in studio. Per chi fosse collegato soltanto adesso, vi ricordiamo che il nostro ospite questa sera è della Palestina, qui su Clandestino Gid, sempre su Fuori Onda Radio. Ok, abbiamo illustrato varie tematiche appartenenti alla sua vita e a quello che si vive oggi in Palestina. Adesso il nostro ospite ci illustrerà il movimento, la restrizione del movimento della popolazione palestinese, perché comunque la puntata di oggi, come fa di solito Clandestino, è quella proprio di dare libero spazio alla libera informazione, alla vera informazione. Yeah, there is a restriction of movement every day, we're suffering every day. The occupying forces have constructed over 500 checkpoints throughout the West Bank, which hinder not only the freedom of movement, but also naturally Economic growth on Palestine. Okay, the situation in the Gaza. The most important thing, I think, the last war will happen before 1 week. About the war on Gaza, the most number of Palestinians who were killed in the ongoing Israeli attack, the Gaza Strip, for the 6th days in a row since 14 November, searched 90 persons with more than 900 injuries, mostly children, women and elderly. Il nostro ospite praticamente ci ha illustrato la situazione prima della comunque della restrizione della popolazione palestinese nella propria terra. A proposito, potete vedere sulla nostra homepage un'illustrazione fotografica del restringimento della popolazione e dell'avanzamento di quella dello Stato di Israele, e dopo ha illustrato la situazione a Gaza, la guerra di Gaza, comunque parlando di tantissime persone che ogni giorno perdono la vita, tra cui bambini, donne. Ok, Peppe, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, innanzitutto volevamo pure salutare in diretta il nostro amico Lorenzo che ci ascolta come sempre. Poi volevo aggiungere due parole su questa storia che purtroppo va avanti da troppo tempo. Bisogna trovare una soluzione a questa situazione complicata. Non è possibile che un popolo nella propria terra non può vivere liberamente, costruirsi una casa perché deve essere accusato di essere un terrorista e quindi li si bombarda. E poi le televisioni occidentali che ci vengono a dire che Hamas ha lanciato un missile uno ogni 10 anni, non ha fatto nessun danno, e poi mentre lo Stato israeliano lancia continuamente bombe, ammazza bambini, attacca le scuole, gli ospedali e non se ne sa nulla. E si dice che Israele è il buono, tra virgolette, i palestinesi sono i terroristi perché sono islamici, quindi vanno tolti da lì. Gizzo, aggiungere tu qualcosa? Sì, appunto sulla questione che si vive della malinformazione e del fatto di additare sempre i musulmani, comunque passa naturalmente il messaggio negativo. Anche ultimamente quello che è successo giorni fa a Venezia, alla sinagoga, sono comparse delle scritte puramente riguardanti la liberazione della Palestina, ma anche comunque insulti semiti nei confronti degli ebrei, scrivendo gli ebrei sono tutti nazisti. Ahmed ci parlava proprio di questo, tipo il fatto non è religioso assolutissimamente, è soltanto la questione di una di uno Stato manipolato da poteri supremi. Ok, Ahmed, now we can talk about the media. Yes, when I arrived here, I see the news. I see many differences between the truth and the media, especially TV. I think this is the war of media, because the news hide the truth to the world and damaged the image about Palestinian people. Moreover, they used the peace like a cover to control all Palestinian land. Ok, quindi il nostro ospite ci parla della situazione dei media che non dicono la verità e che innanzitutto l'immagine che viene passata nelle nostre televisioni, nei nostri giornali, delle persone che abitano la Palestina. Appunto si usa molto dire la parola pace, la pace in situazioni quali, non lo so, si può arrivare alla pace uccidendo il male che in questo caso è sottoscritto che siano i palestinesi, ma alla fine è tutto falso. Si parla di pace, si parla di tregua, ma il problema è che non è uno stato, è una guerra. In pratica è uno stato solo che attacca un'altra popolazione. Possiamo associare la stessa Germania nazista, quello che ha fatto con gli ebrei, ora lo Stato sionista israelita sta commettendo nei confronti dei palestinesi. Possiamo ricordare le stragi di Shabra Shatila in Libano, possiamo ricordare un sacco di situazioni assurde in cui questi poveri pastori palestinesi, che ora sono una popolazione poverissima, costretta davvero a vivere nel terrore che il giorno dopo sia morto. Quindi diciamo basta a questa guerra, a questo sterminio da parte di Israele. Lo Stato sionista israeliano deve smettere di massacrare i poveri palestinesi. E vorrei mandare un pezzo che parla appunto di questa situazione. È un pezzo degli Alboro Motore del 74 e si chiama Israele. Buon ascolto. Yeah. si ritorna in studio con Destino Cid. Vogliamo salutare tutti i nostri ascoltatori e ricordare che la puntata di oggi è dedicata interamente alla Palestina. Abbiamo qui il nostro ospite, Ahmed, che adesso ci... delineerà il quadro attuale della situazione della città di Gerusalemme. Okay. Yeah, Jerusalem is a very important city for us and I think for all the world religions. Yes, I'm Muslim and Jerusalem is very important for me. There's a Al-Aqsa Mosque and I'm 22 years old. I can't enter to pray there and no one from my family because we are Palestinian. I want to say something, not our problem with Jewish people, our problem with who's come to our country and take our land. Until he was Muslim or anything, he will be, we will be against him. You understand? Yes. This is, I think some people think our problem with the Jewish especially. No, no, not with the Jewish. The problem who's come and take our land. This is the problem. Because some people in Europe and think that this war, the problem of this war is the religion, but no, no, not correct. I think anyone he will lost something, anyone when lost something, he will be against them. Yes. Okay, and. What is your thing about democracy? Democracy, I think all the world know European and America is the first world and they call us the third world, yes. And if they speak about democracy and justice, I think they have to do something, yes. But they don't do anything. We can't see something correct mean this is democracy and justice, yes? Ok, il nostro ospite ha parlato della situazione che si vive in Palestina. Non è un problema religioso, assolutamente no, perché appunto ci parlava prima della città di Gerusalemme, che è una città comunque abitata da tante tante persone che comunque hanno tantissimi tanti tante altre religioni. Poi ci ha parlato della democrazia, cosa pensa lui della democrazia. Dicendoci che intende democrazia come giustizia. Beppe, tu cosa pensi a proposito della democrazia? La democrazia che abbiamo oggi purtroppo non lo è, in realtà, perché siamo illusi che votando un rappresentante, mandandolo al governo, questo qui faccia gli interessi delle popolazioni, ma in realtà da parecchio tempo non è più così. Oggi sono state, per esempio, in questi giorni sono state queste primarie, queste farze del PD che per mandare uno dei tre per candidarsi al governo, ma sappiamo benissimo che cambia poco o nulla. O negli ultimi anni o centrodestra e centrosinistra che sono stati al governo hanno fatto le stesse scellerate politiche contro le popolazioni, contro i lavoratori, contro... Si è soltanto sono aumentate le tasse, sono diminuiti i servizi. Purtroppo questo termine democrazia è stato abusato negli anni perché è soltanto una presa per il culo, scusate il termine. E tu, Ciccio, della democrazia cosa ne pensi invece? La democrazia è qualcosa di... che figura sui libri, ma in realtà purtroppo non si vive. Tutto come diceva Peppe, qui in Italia si va a votare per uno Stato, ma quale Stato? ho chiestato. Purtroppo è triste da dire, ma è triste da dire anche da pensare che molte persone ancora si fidano di tutto ciò e sono quasi non mascherate, ma portano uno scudo che non gli permette di attaccare non giustamente in senso negativo, ma anche positivo, nemmeno per dire la loro opinione, per esprimere un giudizio. E molti pensano che andando a votare si può esprimere un giudizio a favore naturalmente di chi comunque, anche elencando, come diceva prima Peppa, le primarie del PD, sono tantissimi volti, vecchi e nuovi, che comunque hanno contribuito al macello di una nazione. Con questo chiudo la parentesi e ringrazio tanto il nostro ospite, lo stesso far lui con voi, vi lascio la parola. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Okay, thank you so much, Ahmed. Okay, Peppe. Volevo salutare anch'io Ahmed, scusa. Lo volevo ringraziare per essere venuto qui a illustrare la situazione palestinese da una persona che l'ha vissuta e la vive tuttora questa situazione. Vabbè, ora no, perché si trova in Italia, quindi conosce la situazione. Chi meglio di lui può parlarci della situazione che c'è lì, piuttosto che un giornale o chiunque altro. Mandiamo un pezzo degli amici di Ciccio, quelli di Valencia, penso che sono loro, chissà, me ne ricordo, l'anno scorso. Questo pezzo si chiama Palestina. Un buon ascolto a tutti voi. Come stiamo? Fuente de inspiración, voy a acabar con los males de la nación. Me ha de sentir fuerte como un león. Cambia malo de letra como un cañón. Para terminar con la confusión, que nos lanzan para atrás a la revolución. No hay enemigo, no que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejorar baja la imaginación. Para acabar con la maldita corrupción, estamos hartos de tanta imposición. Trucigas que no buscan ninguna solución. fuente de inspiración. Voy a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Llama a la hoteleta como un cañón. Para terminar con la confusión. Que no están para tapar la revolución. Enemigo no que pare el petón. Nosotros lo llamo de parte de la razón. Eccoci ritornati, ritornati in diretta qui nello studio dell'aula più occupata dell'Unical. Ahmed se n'è andato e ora tocca a noi continuare questa puntata. La riprendiamo in grande stile come l'anno scorso, come stile clandestino Cid. Un saluto di Lorenzo, devo salutarlo di nuovo perché ci sta prestando, perché lui vuole il blues. Lui c'ha il blues e quindi vuole ascoltarlo anche su clandestino. Però volevo ricordargli che la nuova stagione di Fuori Onda Radio prevede anche un palinsesto di selezioni musicali e se andate sul sito fuoriandaradio.altervista.org trovate il palinsesto con i giorni settimanali e oggi pomeriggio dalle 19 alle 21 c'era il blues, quindi Lorenzo potevi andare oggi pomeriggio ad ascoltarlo. C'è anche un altro amico che lo ricerca, e l'amico è Stefano di Petrona, un saluto pure a lui. E volevo ricordare una parola per il discorso di prima, una citazione di Mark Twain: se votare servisse davvero a cambiare le cose, non ce lo farebbero fare. Questa è stata inviata da Stefano, questo aforismo. Continuiamo con la nostra trasmissione. Cedo la palla a Ciccio, gli faccio un assist al volo, vediamo se fa gol. Speriamo Peppe. Continuo con i saluti, volevo salutare Gian Domenico e mia zia, c'è anche mia zia in ascolto Peppe, quindi ciao zia Isabella. Molto riflessiva questa puntata, spero che tutti abbiano potuto comunque comprendere qualcosa, dato anche il nostro scarso inglese purtroppo. Scarso il tuo inglese, la Cicci, il mio era perfetto. Inglese proprio madrelingua, padrelingua, tutto, zio lingua, qualsiasi cosa. Va bene, chiedo venia, non lo so, a qualcuno. Molto riflessivo e fa notare, cioè si denota proprio quanto purtroppo valga poco la vita di un uomo. Anche perché Ahmed l'altra volta mi raccontava un fatto nella sua città, praticamente relativo al coprifuoco. Era andato a studiare, studia in un'altra città, e praticamente alloggiava in un residence dove c'erano 6 camere, 3 sotto e 3 sopra. Praticamente entrarono una sera questi soldati e cominciarono a sparare tutti. A uccidere praticamente tutto il piano inferiore dell'abitazione, come per dire mi è andata bene, sono vivo, posso raccontare queste cose, e per questo lo ringraziamo e lo ringraziamo ancora tanto. Niente Peppe, adesso che ne dici se ci occupiamo un po' della nostra nazione per quanto riguarda la carta d'identità, tu lo sai bene. La tua carta d'identità, io non ce l'ho, ci ricordo. Sono apolide. Possiamo tornare nella nostra scellerata nazione che ci ha dato i natali. E un saluto anche a Natale se ci ascolta. Quindi possiamo parlare della situazione non solo italiana, ma pure della situazione della nostra università. Perché c'è stata una cosa, aspettate che prendo il cellulare, in questi giorni è accaduto che, siccome ci sono le elezioni studentesche, mi è arrivato un sms a me come tante altre persone, un numero che ho controllato sui previsti internazionali ed è del Madagascar, quindi io ho conoscenze anche in Madagascar, quindi la prossima volta su clandestino partiamo qualcuno del Madagascar, ti va bene? E questo simpatico ragazzo o ragazza di Madagascar mi ha detto che alle elezioni del 28-29 novembre dovevo votare una lista con un simbolo e diceva al consiglio di amministrazione di Scheda Bianchi di votare un determinato personaggio, che cui non cito nel telefono, nella radio, perché non voglio fargli anch'io campagna elettorale. Ma è strano come gente del Madagascar conosce, sappia che ci sono le elezioni all'Unical.

ed ossessivo fino alla viura di me, a viura di me, a viura di me, a viura di me, di me, di me, a viura di me, a viura di me, a viura di me, di me. Eccoci ritornati dopo questo straordinario pezzo di Caparezza, che io paragonerei per la profondità dei testi addirittura ad André. Qui forse c'è qualcuno che mi verrà a colpire con qualcosa in testa, però secondo me Caparezza merita. Lui, con i suoi testi spettacolari che trattano tematiche attualissime di denunce, di parla di argomenti abbastanza sentiti, non può essere che paragonato a un grande autore come il Faber, che purtroppo è morto tempo fa. E diamo il gelato a Ciccio, vediamo cosa trasformola in un'opera. Vai Ciccio. No, mi ricollego subito a quello che hai detto tu. Caparezza è un artista con la maiuscola, anche perché comunque va a trattare temi, è una persona di grande cultura anche nel trattare l'abiura, dal un termine latino, appunto rinnegare un giuramento, abiura di me, rinnegare me stesso, è qualcosa che non dovrebbero fare tutti, ma almeno fare un esame di coscienza che ci sta tutto. Io vorrei ricordare un fatto che è successo giorni fa a Roma. Praticamente quel ragazzo che si impicca a 15 anni per il fatto di essere gay, la mamma ha dichiarato che praticamente lo hanno crocifisso come Gesù. Ancora Peppe, mentre negli altri stati come la Francia, non so, si va avanti mentalmente, soprattutto parlando, poi parleremo anche della situazione politica se qualcuno ne ha voglia, comunque si va avanti, non lo so, votando legge a favore delle nozze gay, comunque interpretando la libertà di ognuno. Qui in Italia ancora siamo bravi, non lo so, a ghettizzare le persone, a indicarle come, non lo so, qualcosa di diverso, di anormale. In Italia non si può, Ciccio, ma come sei pazzo? In Italia c'è il Papa, secondo te queste cose possono essere accettate dalla religione cattolica? Un uomo che va con un altro uomo, una donna che va con un'altra donna, ma siamo impazziti? Dove la Bibbia parla chiaro, Ciccio. La Bibbia, che è la Costituzione del nostro Stato, il nostro Stato, la Repubblica Cattolica Italiana, RC, che è basata sui principi della Bibbia, dice che queste cose sono atti impuri e quindi dovranno andare all'inferno queste persone che sono malvagie. Purtroppo viviamo in questo Stato, siamo succubi del Vaticano che ha messo qualsiasi cosa, mette parole in ogni discorso della politica italiana, no le staminali, no a questo, no a quell'altro, no le nozze gay, no, e quindi rimaniamo nel Medioevo. Addirittura possiamo ricordare che già i greci e i romani facevano atti omosessuali, che l'imperatore tipo Alessandro Magno, che ha conquistato mezzo mondo, che viene citato in tutti i libri di storia, era anch'esso omosessuale, Giulio Cesare. Quindi non penso che ci sia qualcosa di male in questo gesto. Se uno dovrebbe affrontare la propria sessualità come meglio vuole. Purtroppo viviamo in questa società di merda che costringono le persone a suicidarsi oppure vengono massacrate da questa gente che, dire, chiamare gente veramente eccessivo. Dai. Sì, è vero, appunto hai tirato fuori un bel tema, quello delle staminali. Adesso non so con preciso quando fu il referendum, ma visto da tutti, non lo so, come qualcosa di anormale, no? Queste staminali, cosa faranno queste staminali? Andranno a impiantare nuove braccia, creeranno degli alieni, così, quando invece sono vengono utilizzati negli altri stati e danno un contributo grandissimo alla ricerca anche sui tumori. Ricordiamolo questo, Pep, perché almeno illuminare le menti, illuminare nel senso proprio del termine, far coscienza, no? Di questo, di tutto ciò, degli sbagli passati, almeno ricordare la storia come qualcosa che da analizzare e da non ripetere se comunque ci sono dei fatti così bui. Possiamo andare avanti con il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo che è di Janis Joplin e lo chiama Tutti i Bluesmen Presenti Online. Specialmente a Lorenzo, ciao Lollo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. I'm Grandissima, grandissima Janis Joplin, un'artista immensa. Mi dispiace interrompere la sua voce con la mia bruttissima voce, la sua splendida. Purtroppo morta a 27 anni nel 1970, come altri artisti morti anche loro a 27 anni, ricordiamo Jimi Hendrix, Kurt Cobain, e un altro, non mi ricordo. Qualcuno, Jim Morrison, giusto. Già detto Jimmy Hendrix. Salutiamo il nostro amico Andrea da Cosenza, il nostro bluesman che diciamo che è un grande amico, un grande intenditore di musica. Penso che anche lui farà la trasmissione tra qualche giorno, non so se iniziano. E Ciccio voleva salutare un po' di ragazzi che ci stanno ascoltando. Vai Ciccio, vai con i saluti, vai. Facciamo una bella carrellata di saluti. Volevo salutare Vincenzo Grande, Stefania De Fazio, Cristian Berlingeri, Luigi Rizzuti e tutti coloro comunque che non lo so se mi appaiono nella homepage di Clandestino. Li saluto, se non altrimenti saluto tutti gli ascoltatori. Adesso passiamo alla pagina artistica Arte o Se. Praticamente cosa succede a Sydney in Australia? C'è questo artista Picasso che praticamente disegna con il pene, Peppe. Fa delle bellissime opere d'arte con il suo pene. Comunque penso che sia una bellissima forma di arte che va presa in considerazione, no Peppe? Diciamo che fa quadri del cazzo. Letteralmente, c'è chi disegna con i piedi, con le mani, e c'è chi disegna con il membro. Chissà se c'è anche una corrispettiva femminile che dipinge con che dipinge Ciccio, ne sai qualcosa tu che sei esperto di arte? Guarda, conosco il body paint, comunque che è una bellissima forma d'arte. Ricordo furono disegnati dei magnifici corpi riferenti ai CD dei Pink Floyd, Beppe. C'erano tantissimi, non lo so, cinque album. E praticamente no, come artiste femminili, se qualcuno le vuol proporre, ma l'altra volta su un X Factor, forse francese, mi è sembrato intravedere comunque. Come Ciccio, cosa guardi tu il giorno? No, mi è stato postato così. Io navigo, Peppe, purtroppo sono curioso, sono un curiosone, quindi mi interesso di tutto. C'era sta ragazza, non so, che muoveva il suo sedere a suon di musica. E niente, andiamo avanti con un'altra notizia, Peppe, un'altra notizia sempre riferente alla libertà, libertà naturalmente d'espressione artistica, ma anche libertà di, come citata prima, sessuale, ma questa volta anche dell'incredibile, perché è una notizia che leggevo dell'11 e del 22 novembre, praticamente in Svezia, Peppe. Una donna è stata accusata di aver fatto sesso con uno scheletro. Praticamente la polizia è entrata a casa e ha trovato più di 100 ossa di resti umani. E praticamente la donna, non lo so, 37 anni, si pensa l'abbia usato per masturbarsi. Sempre notizie particolari dal nostro Ciccio. Mo farsi uno scheletro, boh. Non so che gusto ci trova una persona a farsi uno scheletro. Parlando di scheletri, volevo salutare il mio caro amico, il mio ex concurino storico, il mio Pasquale, che ti volevo ricordare che ci sono dei gamberi nel congelatore che ti aspettano per giovedì, quindi porta vino. Approfitto dell'etere per... etere questo? No, forse no, questo non è etere. Che cos'è l'etere, Ciccio? L'etere è qualcosa di invisibile. Quindi anche questo è etere. E l'Eternit invece? L'Eternit, se fai una passeggiata sull'università ne troverai tantissimo, Peppe. Sono le coperture del XXI secolo, anche, non lo so, bandite dallo Stato, ma vengono utilizzate spesso e volentieri, economiche. Bandite dallo Stato, ma diciamo che sono stati i loro ideatori sono stati costretti a pagare non so quanti soldi di multa, forse sono andati anche in carcere, mi sembra. Però al giorno d'oggi troviamo interi paesi costruiti in Ethernet. La Calabria troviamo tutti i giorni, oppure troviamo quando facciamo un'allegra passeggiata per i boschi alla ricerca di funghi, oppure di, che se ne so, un giro per il bosco, troviamo queste bellissime distese di Ethernet che nascono naturalmente nelle nostre, le famose Ethernet, come si chiamano dalle nostre parti, che nascono in maniera naturale dal suolo, sembrano dei, come i fiori questi qua. Chissà se la natura li produce oppure li ha portati qualcuno lì. Secondo me nascono naturalmente, come i funghi. La notte, e spunta l'Ethernet. Comunque no, ricordiamo a parte gli scherzi che fa malissimo, portatore di cancro, specialmente la polvere che si produce dal taglio di questo materiale è veramente dannosa per il corpo umano. Sì, ricordiamo che questo materiale, diciamo che è assolutamente innocuo se preso intero, però quando si sgretola produce dei danni irreparabili ai nostri polmoni, perché è molto sottile e fa male. Un saluto a Michele, che ci ricordava che il nostro ponte dell'Unica l'è costruito interamente in amianto, ma l'altro giorno parlando con l'altro giorno ho questo problema, l'ho affrontato diverse volte con alcuni, diciamo, persone che sapevano e dicono che questo non è Ethernet, in realtà sono un materiale che somiglia all'Ethernet, ma no, non è contenuto, non c'è amianto. Chissà quale, se è vero o no, intanto noi viviamo nel dubbio e abitiamo sotto di Ethernet e continuiamo a respirarlo. Possiamo passare con il prossimo pezzo, dopo queste bellissime notizie, diciamo che viviamo nell'Ethernet. Un saluto anche ai cavi Ethernet, quelli là sono diversi, però quelli fanno andare su internet. Manderemo un pezzo di Slash, famoso chitarrista di un grande gruppo, quale Ciccio? Velvet Revolver. Oppure prima? Guns N' Roses, ma prima forse nei Velvet è stato, no? Ci dovremmo documentare meglio. No, prima i Guns N' Roses, Ciccio. Sì, i Velvet Revolver sono nati da uno scioglimento dei Guns N' Roses. E ora non so se suonano ancora, forse sì. Boh, ci documenteremo, ve lo diremo dopo il pezzo di Slash, Starlight. Oh, starlight, don't you cry. Siamo di nuovo qui solo per voi, ascoltatori fedelissimi della nostra trasmissione Clandestino Cid. E intanto salutiamo Antonietta, che speriamo ci sta ascoltando, se no mi incazzo, che lei è la nostra ascoltatrice che c'è sempre, di solito c'è sempre stata, mo ha scritto delle cose sulla nostra pagina. Un saluto pure a Deborah, Stella, Emiliana e a qualcun altro pure, a Rosangela, scusa, che mi ero dimenticato, a Colonna forse ci sta ascoltando. Risolviamo il problema, l'enigma di prima. Quindi Slash ha suonato con prima con Guns, come dicevo io, poi con un altro gruppo che sono gli Slash Snake Pit, grande inglese, che hanno fatto due album, e dopo è andato con i Velvet Revolver ed è tuttora facente parte della formazione dei Velvet Revolver, che purtroppo non pubblicano un album dal 2007. Quindi speriamo che presto ci degnino di un altro album. E volevo chiedere una cosa a Ciccio. Tu hai mai visto Slash in faccia, Ciccio? Perché ha sempre i capelli davanti e quindi nessuno l'ha mai visto. Quindi c'è il dubbio se abbia una faccia. Ce l'ha la faccia te, Slash? Ce l'ha. Mi spiace deludere l'aspettativa di tante ascoltatrici. Ascoltatori, ma è abbastanza brutto pure da vedere, Peppe. Ciò non si poteva dire naturalmente di Axl, che è tutto naturalmente Axl. Comunque Slash purtroppo è abbastanza brutto. Compensa con la musica, è un grande chitarrista, Peppe. Ah, perciò si nasconde, perché è brutto. Quindi dovrei fare anche lo stesso, penso. Continuiamo con le nostre notizie di cosa? C'è sempre la marijuana, sei un cazzo sballato. Vai sempre a cercare notizie sulla marijuana. Cosa fa questa marijuana, questa droga cattiva che viene dal nostro stato, viene perseguito, chi ne fa uso, chi la coltiva? Cosa fa questa marijuana, Cicci, questa marijuana cattiva? La marijuana cattiva, tocchiamo uno dei tabù naturalmente, è cattiva, dipende dall'uso che se ne fa, Pep, perché come ci viene documentato dagli Stati Uniti, una bambina malata di leucemia comunque riesce a, comunque sta sconfiggendo questa malattia grazie alla marijuana. La marijuana che naturalmente le viene data in media in un grammo di olio fatto dalla pianta della cannabis al giorno, due o tre volte al giorno, in forma di biscotti fatti col burro e tante altre ricette. Ricollegandomi alle ricette fatte con la marijuana, praticamente ci spostiamo in Puglia, caro Peppe, in Puglia, che si è dato via questa iniziativa, il Canapuglia, e praticamente a Conversano precisamente. E niente, si stanno comunque dilettando i pasticceri e i fornai di questa terra a creare dei prodotti con la marijuana, con le foglie delle cannabis, praticamente fare della pasta per i biscotti, fare dell'olio, fare anche dei taralli, caro Peppe. Cioè, alla fine, purtroppo, nella campagna fatta negli anni 70 ad opera degli Stati Uniti, è stata maledetta questa pianta, come dicono i giamaicani della musica reggae: ciò che nasce dalla terra non può essere cattivo. Nel 1937 le leggi contro la marijuana, perché praticamente dovete sapere tutti, anzi spero che lo sappiate, è una pianta che può essere utilizzata ed è stata utilizzata fin da, anche nella prima guerra mondiale, non lo so, per fare delle tende, i sacchi di canapa sono i più resistenti al mondo, e anche naturalmente Ford, l'ideatore del marchio, non vogliamo fare pubblicità giusto qui con Destino, ma è giusto dirlo, aveva sviluppato un prototipo di auto che si alimentava con l'olio della canapa. E ricordiamo altre proprietà di questa pianta cattiva: c'è molte proprietà terapeutiche come antinausea e vomito, abbassa la pressione arteriosa, spasmi muscolari, i dolori cronici, il mal di testa e l'emicrania, rinforza il sistema immunitario, dilata i bronchi polmonari per i malati di asma e guarisce l'epilessia e il glaucoma. Quindi questa, diciamo che gli effetti positivi della marijuana sono molti di più di quelli negativi. Ricordiamo pure che se una volta da noi si coltivava e se ne facevano la canapa, si potevano fare dei tessuti, dei vestiti, delle ceste, si facevano un sacco di cose. Purtroppo per interessi che sono delle multinazionali del tabacco, dell'alcol, di altre storie varie, petrolio e tantissimi altri interessi mondiali, questa pianta è stata tacciata di essere malvagia, e quindi parliamo sempre di questa marijuana ogni puntata, guarda caso. E c'è, infatti, vedo il primo moralista che ci pubblica drogato. Non è una droga la marijuana, caro il mio Lorenzo. La marijuana è una sostanza che fa bene. Purtroppo la droga sono altre cose, come l'alcol. L'alcol è una delle peggiori droghe che possa esistere. E Ciccio, tu conosci una droga peggiore dell'alcol? No, naturalmente, cioè non è che noi di clandestino stiamo dicendo fate uso di marijuana, andate a comprare marijuana. No, stiamo elencando comunque le proprietà benefiche di questa pianta, e naturalmente, non lo so, qualcuno una mattina si è svegliato e ha deciso di far guerra, non lo so, anche alle nazioni arabe per prendere il petrolio, quando alla fine c'è il combustibile di canapa, che comunque era più economico. Sicuramente avrebbe risparmiato tantissime vite umane. Per quanto riguarda la droga, per la marijuana è una droga, ti devo correggere qui, perché comunque sotto il termine di droga vanno tutte le sostanze vegetali e non che abbiano con sé un principio attivo. Quindi non lo so, il peperoncino è una droga, il pepe è una droga. Sì, il peperoncino per me è una droga, devo mangiarlo ogni giorno, se no sto male. Io quando mangio la pasta uso tanto peperoncino. Vabbè, comunque basta parlare di queste... No, parliamone ancora, perché basta. Comunque, un saluto al nostro amico che ha detto cocaine. Quindi, figuriamoci, c'è un moralista, uno che si chiama cocaine. Mandiamo un pezzo, che ne so, Ciccio, oppure parliamo ancora... Mandiamo un pezzo di chi? Di Alborosi? Police. Giusto per essere in tema. exactly my ear rights. I'm not trying to take you for fool. It's 9 o'clock in the night. Me just a walk, me no look for no trouble in New York City. But of course, there is some problem, cause I'm a naughty naughty. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Mr. Brown, where you depart? I'm just smoking a spliff. But by the look in your eyes, I know things not go sweet. So 5 more Babylon come now, treating me like a terrorist. But Mr. Brown, you should know long time, say Rastaman a herbalist. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. ID, passport and me guns. No, you don't need no answer. ID, passport and me guns. No, you don't need no answer. Cause Rastafari no like no CIA. Cause Rastafari burn down the air. Love and joy we are praying. Siamo di nuovo tornati qui, sempre nel solito studio, sotto le stelle, sotto l'Eternit, sotto i pannelli coi bentati, sotto qualsiasi cosa, poi perché siamo dentro. Se eravamo fuori c'erano solo le stelle sopra di noi. Va bene, Antonietta ci accusa di essere monotoni, quindi cambiamo argomento, non lo so. Qui ci sono conversazioni multiple su Facebook, non ci capisco più nulla, quindi Ciccio, vai tu che io devo parlare. Vabbè, monotoni fino a un certo punto, Peppe, sono delle notizie che ci arrivano, quindi è doveroso parlarne. Comunque, niente, voglio salutare Stella, la nostra amica Stella e Rossella, non so se l'avevi fatto prima. E Rossella non critica, ma a differenza ci manda delle news dalla Cina, che praticamente vengono rimosse 2 milioni di tombe per far spazio ai campi agricoli. Peppe, quindi la Cina ancora un paese in espansione, sempre in espansione, con la... scusa, vorrei salutare il nostro amico Vittorio, caro Peppe, perché è riuscito a laurearsi, a prendere la laurea in farmacia e a partire per la Cina, no, per il bus. Il nostro amico Vittorio, che l'anno scorso è stato ospite qui, diciamo, ricordiamo che Vittorio non voleva parlare di censura in Cina, secondo lui non esisteva, non voleva parlare di Tibet perché, non lo so, aveva un po' paura che il regime lo seguisse fin qui per fargli qualche ritorsione, quindi ha giustamente deciso di farsi i cazzi suoi, di farlo omertoso, come facciamo qui in Calabria quando vediamo qualcosa che non va, ci giriamo dall'altra parte, e quindi rimarremo sempre in questo stato. C'è il mio amico Lorenzo che ora tra un poco ti dedicherò il pezzo, proprio il tuo pezzo, Lorenzo. Lorenzo, tieniti pronto perché arriva Eric Clapton con Cocaine. Eccoci qui di nuovo, ancora una volta in diretta, sempre qui solo sulle frequenze di fuoriondaradio.intervista.org, ogni lunedì dalle 22 alle... se non si sa quando finiamo, sempre Clandestino CD in diretta, e potete seguirci anche in replica, indovinate quando? Venerdì dalle 18 alle 20, dalle 18 a quando finiamo, quindi può essere che dura meno delle 20 oppure di più, dipende quanto facciamo. E potete scaricare il podcast sempre sul sito fuoriondaradio.intervista.org nella casella numero 4 dove c'è scritto podcast. Andate lì, andate download e scaricherete il nostro mitico podcast, l'ultimo oppure quello dell'anno scorso, dove ci sono stati tanti ospiti simpatici, elettrizzanti, entusiasmanti. Potete ascoltare i nostri deliri, le nostre lezioni musicali e tanto altro. Ora continuiamo con il nostro bravissimo Ciccio. Vai Ciccio, vai. Sì, volevo salutare un'amica che ci ha raggiunto adesso, che è qui con noi. Demasi. Ciao a tutti ragazzi, una buona serata. Ok, Peppe, spostiamoci un po' sull'area tecnologica e internet. Comunque, che magari... ne sai di più. Oggi leggevo che praticamente è stato venduto il primo computer ideato da Jobs per 500.000 euro, Peppe. Puoi ripetere che ero distratto? Ecco, non funziona così però, Peppe. Quest'oggi è stato venduto all'asta il primo laptop ideato da Jobs per 500.000 euro. il primo Apple, Peppe. Ah, che bello, mamma mia, che bello. Il mitico Steve Jobs, quello lì, insomma, quello che ha fatto il phone per i capelli, sempre lui, che ha fatto queste cose abbastanza fighe, bianche, piatte, l'ultimo modo, che costano un sacco di soldi, che tutti comprano e tutti hanno, perché devono farsi fighi l'iPhone 4, l'iPhone 5, che sono gli stessi, però solo che uno è un po' più grande dell'altro e quindi bisogna avere l'ultima tecnologia. E ricordiamo che l'iPhone 5 ti porta a casa se rimani a piedi a Cosenza Vecchia, ti riaccompagna a casa. È successo a una nostra amica tempo fa e se volete vi faccio parlare con questa ragazza che è rimasta a piedi a Cosenza Vecchia e questo iPhone, sono uscite le ruote, lei si è messa di sopra ed è tornata a casa, se ne salva. Quindi le proprietà miracolose dell'iPhone sono superiori a quelle della marijuana, Cic. Quindi continuiamo in crescendo la nostra trasmissione. E ricordiamo che purtroppo le tecnologie sono anche un problema perché si produce tanto, ossia ogni mese cambiamo cellulare, ogni mese cambiamo computer, ogni mese cambiamo televisione, sono tanti quelli che vengono costruiti, però sono tanti anche quelli che vengono abbandonati. E questi rifiuti dove vanno a finire? Non si sa. E ricordiamo che a Cosenza c'è il museo di Verde Binario, che una volta era qui all'Unical, però purtroppo si è deciso che questo museo dell'obsolescenza, mi sembra che si chiama, non poteva più stare qui all'Unical perché era ingombrante. Si è deciso piuttosto che mettere le spin-off, quelli che possono fare soldi qui con gli studenti che vanno a fare lì le tesi e poi loro si vendono i prodotti fatti dagli studenti. E si è deciso di farli andare via e adesso sono costretti a pagare un affitto in questo appartamento a Cosenza, però siccome ci tengono molto a questo museo, questi grandi personaggi portano avanti lo stesso a spese loro questa importante iniziativa. E Ciccio, vai tu. Vai. Alla fine sì, qui la notizia danza parla di miniere urbane, alla fine prodotti elettronici hanno tantissimo di oro al loro interno, quindi magari potrebbe essere, non so, interessante aprire anche un'attività così, giusto per hobby, non lo so, e magari riciclare innanzitutto qualcosa, aiutare la nostra madre terra ed essere, non lo so, guadagnare qualcosina pure per te. A riguardo, volevo salutare Stella che ci spamma una notizia veramente ecologica. Heart Angel, vibratore a manovella per tutte le signore eco e per le coppie che amano i giochi erotici biologici. Perché mi passi il microfono a me? Stella, ma cosa ci pubblichi, Stella? Sempre là c'è la testa. I vibratori ecologici, non lo so. Ciccio, non lo so, io vibratori non ho mai visto un vibratore, nemmeno quelli a manovella. Tu ne hai mai visti, ne usi tu, Ciccio? No, Peppe, non ne faccio uso. Comunque, se ci state per il compleanno di Peppe, possiamo acquistare un vibratore o a manovella o elettronico. Alla fine, Peppe, cioè, per quanto riguarda il mondo della masturbazione, è preferibile un vibratore del genere che alle ossa di un cadavere, no? Infatti, diciamo che quelli sono ancora più naturali, comunque, di questi, secondo me. Quelli sono proprio a impatto zero con l'ambiente, tu prendi un osso ed è fatto. Però diciamo che consigliamo a tutte le ragazze in ascolto che secondo me è meglio farlo con un vero uomo che piuttosto che farlo con un pezzo di plastica. Poi ognuno ha le proprie fissazioni. Ma, viva l'amore libero, quindi ognuno faccia liberamente, come direbbe il nostro caro amico. Maestro, ora mandiamo un pezzo. Un pezzaccio di, che ne so, andiamo Perfect Cocaine Mnai Coisa, che cos'è? Che lingua è, Ciccio? È polacco. Ah, è polacco, giusto, da te cosa ci potevamo aspettare. Questo te l'ha consigliato Alessandra? Sì. Un saluto anche ad Alessandra dalla Polonia. Ciao Alessandra. Świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię ból. Nie fizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie, tak jakby świat się skończyć miał. Di nuovo qui questo pezzo, bellissimo pezzo, è alla conclusione, anche noi siamo alla fine della nostra trasmissione, ancora un altro poco, però ci vogliamo ancora divertire un po' con voi. E vai Ciccio, vai. Sì, vorrei, non lo so, dare un altro polverone, che è quello comunque delle vittime della mala polizia, comunque ricordando Carmine Spina, Stefano Cucchi, Aldo Bianzino, comunque vittime dello stragio del potere, quando appunto questa parola prende il sopravvento e nessuno può far niente, vittime che comunque vengono dimenticate, spesso etichettate con falsi nomi, ma che alla fine sono dei martiri dello Stato, perché alla fine vengono seviziati, le loro vite vengono distrutte e alla fine a pagare non è quasi mai nessuno, perché comunque è per opera dei servitori dello Stato che vengono applicate determinate procedure, come non ricordare naturalmente, è doveroso anzi ricordare fatti che accaddero nella caserma di Bolzaneto, no, Peppe? Nel G8 di Genova. Quindi Clandestino Cid lancia un messaggio, che è quello di stoppare comunque, anzi il potere che credono loro le forze dell'ordine. Con questo non vogliamo racchiudere tutti, magari c'è chi fa il suo dovere con diligenza, ma è brutto scoprire determinate cose, anche perché la vita di molte persone dopo determinati giorni o è finita oppure è cambiata del tutto. Sì, siamo molto solidali nei confronti di queste persone che hanno subito violenze, non solo da parte della polizia, ma violenze in generale. Purtroppo succede ogni giorno questa violenza, questo abuso di potere delle forze dell'ordine. Volevamo ricordare tipo qualcosa che è successo a un amico nostro tempo fa, diciamo che è una cosa più leggera, che siccome ha risposto male dei vigili urbani, gli hanno fatto a Cosenza, gli hanno fatto una multa per sottovelocità, non so come si dice, perché andava piano con la macchina. Gli hanno riuscito, questo amico nostro, gli hanno fatto una multa perché andava piano. Mo, cioè sì, ho sentito dire in giro multe per eccesso di velocità, ma mai multe per sottovelocità. Proprio assurdo, in un centro abitato, pieno di traffico, l'hanno multato soltanto perché prima non gli aveva risposto bene. Quindi basta questi abusi di potere. E, non lo so, mandiamo un altro pezzo. Questo pezzo lo dedichiamo a una nostra amica che ce l'ha chiesto. È una canzone di Vinicio Capossela, canzone Manovella. Siamo una barca chiusa nella bottiglia del bettoliere. Fermi nel bagno asciuga, non ci spostano da sedere. Il tempo è un allambicco che piano piano ci cola a picco. Nel ghiaccio in mezzo al mare, senza un messaggio da riportare. 15 uomini sono andati, se li hai presi la morte secca. Dietro al molo della Giudecca, la marina s'affoga alla spina. Sul manometro del timone brilla il calibro del cannone. La corvetta sta di vedetta, che non si stappi quel collo in fretta. Sotto coperta la giurma canta, sopra coperta la giurma crepa. Savoiardi nella congrega, inzuppati dentro la strega. Sulla poppa sta il comodoro, sulla rotta rolla la botte. Il pappagallo sta sulla spalla, la bottiglia ci tiene a galla. Ma un giorno sotto sale una sorpresa venne dal mare. Nel fondo di uno scoglio nero di sempre come il petrolio. Un lampo brillo a squame nell'abisso di verde rame. Un eco scosse la chiglia della ciurma nella bottiglia. Si punta il palombaro con la sua tuta da calamaro. Calato per il baranco, chiuso nel piombo dello scafandro. Va spasso sul fondale, soffia nel mantice col pedale. Appeso per il boccaglio, suona l'armonica quell'abbaglio. Canzone a manovella, canzone a manovella per la vita della mia bella. Serenata marinata per la notte che se n'è andata. Serenata di Capodoglio per il mio cuore chiuso sott'olio. Canzone a manovella. Banchina, la sardina s'asciuga il seno per il canto che le rovina, per la grazia che li avvicina. Tutti intorno si fa la scrima con le foche da brillantina. Beccheggia bagnarola, solo la rotta ormai ci consola. Si ritorna qui su Clandestino Cid in onda su Fuori Onda Radio, nuova stagione. La puntata è quasi al termine. Leggevo un articolo poc'anzi. Le pornostar sono più felici delle altre donne, lo rivela l'Università del Texas, che praticamente dice che le donne che fanno per mestiere, cioè che praticano sesso per mestiere, sono più felici delle altre donne nel fare sesso. Non lo so, potremmo organizzare anche un'inchiesta noi di Clandestino, fare un giro, non sulle nostre ascoltatrici, ma in generale, Peppe, sulle ragazze che ci sono in giro per analizzare questo problema. Cioè, problema per distinguere la cosa, non so chi prova più piacere, se chi fa la pornostar o chi non la fa. Vabbè, Clandestino Cid saluta tutte le pornostar del mondo, quelle assicurate però, che pagano l'IVA. No, vabbè, diciamo che non so se l'IVA la pagano in tutti gli stati del mondo, quindi boh. Per esempio una pornostar di San Marino non la paga l'IVA, quindi Ciccone non la saluti. Ma l'IVA quando ce l'hanno? Il 21%? Allora il 20%? Non si sa. Comunque, interessante studi che fanno queste università del Texas. Diciamo che in America per la ricerca si finanzia qualsiasi stronzata, mentre qui in Italia non è nemmeno gli argomenti più importanti vengono finanziati dallo Stato, purtroppo. Ricordo tempo fa sull'Ansa lessi una notizia, forse parlo 2 o 3 anni fa, che uno studio inglese diceva che le mucche con il nome producono più latte. Secondo me questa qui è un'enorme stronzata che è bellissima da sentire, però diciamo che si fanno studi su queste cose e non riusciamo a curare delle malattie gravi che affliggono ancora il nostro secolo. Ma diciamo che gli studiosi alcune volte ci fanno strane ricerche. Tu cosa ne pensi? Cioè, delle mucche con il nome fanno più latte? Vabbè, alla fine una mucca è un animale domestico, come ha il diritto un cane ad avere un nome, anche la mucca deve averlo. Comunque, vogliamo dire no allo sfruttamento del corpo femminile e anche di quello maschile, alla libera interpretazione del tutto come tutto, e viva le mucche con il nome. Peppe, passiamo ad un altro pezzo, questa volta il pezzo di un gruppo metal italiano, i Lacuna Coil. Burn Di nuovo in diretta, dopo questo pezzaccio dei Lacuna Coil, non possiamo far altro che salutare tutti quanti i nostri ascoltatori, dare appuntamento alla prossima settimana per la seconda puntata di Clandestino. E nella prossima puntata affronteremo te... Non si sa che ci sarà la prossima puntata, lo scoprirete soltanto restando collegati sulla nostra pagina Facebook o sul sito di fuoriandaradi.intervista.org, oppure se ci incontrate per strada ce lo chiedete. Quindi Ciccio, vuoi salutare qualcuno? Salutiamo Lupino da Londra, che prossimamente ci farà anche una trasmissione in diretta dal Regno Unito. Ciccio, vai. Sì, volevo salutare Sayuri Chan, direttamente sta ascoltando da Napoli. Wewe, paisa. E niente, grazie a tutti per la puntata, ringrazio nuovamente Ahmed per il suo intervento. E niente, con la speranza, non so, che un giorno questo mondo cambi. Vi lascio la buonanotte e vi ringrazio ancora una volta. Vi lascio con Peter Tosh, Peace, Treaty. One of a gunner, and that one of a gunner.